Come ti imbassa le ciglia, innamorato sei di questo sol, che se fisso lo guardi. Lasciami sospirare, lasciami al dono, me dono, amore geloso e amore sprezzato. Nulla dunque più vale, amor sincero, e s'altri ama il suo bene, sofferire e tacere, quello è amor vero.